Radio 24. Libera la voglia di fare. Si ricomincia. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Al volo Bruno Perez, deviazione, autogol, la Roma in vantaggio su destro di Bruno Perez, credo Izzo lo sfortunato protagonista. È la domenica, è il fine settimana dei gol che contano, segnati alla fine. Ieri sera abbiamo visto Tonelli che ha deciso Napoli-Sampdoria al 95esimo. Oggi Perisic, tre minuti alla fine, ha regalato all'Inter una vittoria importantissima. Poi Immobile, lo sto vedendo proprio in questo momento, 90esimo, scoccato. Ha regalato alla Lazio una vittoria in una partita col Crotone che si era complicata tantissimo e su cui si può discutere. Allora, io vi do subito il numero di telefono, 800 24 00 24, vi aspetto, chiamatevi, prenotate per intervenire, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, vi aspetto, siamo in diretta fino alle 19, è un fine settimana che dà qualche sentenza, poi piano piano le diamo. Carlo Genta. Ciao Giovanni, ciao a tutti. La prima è che è un campionato che corre tantissimo in testa, poi vi do le proiezioni per andare in Champions League, vincere lo scudetto e andare in Europa League, e questo serve come barometro per tutti per capire dove devono andare se vogliono inseguire i propri sogni e i propri obiettivi, a partire dall'Inter. Quarta vittoria consecutiva, si sta costruendo una seconda parte di stagione in cui può lottare per qualcosa. E poi parliamo di come dei numeri dell'Inter da quando è arrivato Pioli. È un campionato che c'è una statistica clamorosa. Poi la clamorosa. Poi è un campionato che corre tantissimo in testa e che è praticamente inchiodato in coda, dove in un modo o nell'altro abbiamo già tre squadre fortemente indiziate di retrocessione. Poi hai ragione, è stato il gol della domenica dei gol all'ultimo istante. Per le romane è andata bene, l'Inter insomma meriterebbe 6 punti, te lo dicevo prima fuori onda, anche per la maglietta orribile che portava, e che però oggi ha portato fortuna. Poi quanto al resto, il Crotone probabilmente non meritava di perdere all'Olimpico. C'è stato un rigore sbagliato dalla Lazio, 2 gol annullati in fuorigioco, 1 per parte. Uno in fuorigioco non era quello del Crotone, lo diciamo. Oggi è stata anche la domenica. Sembrava di nuovo, poi abbiamo scoperto che invece lo era. È stata anche una domenica non eccezionale per gli arbitri. È iniziata ieri sera con Di Bello a Napoli e proseguita oggi anche con Rizzoli a Marassi, in Genoa a Roma. Allora, lo sentiamo poi Ferrero. Sì, dopo lo sentiamo. 800 24 00 24. Scrive un amico invece. Praticamente le grandi hanno vinto grazie a un bel fondoschiena, credo, ma non solo. Non lo so, alle 18 c'è Milan-Cagliari a San Siro, che seguiremo in diretta con il nostro Dario Ricci, dal quale vado. Ciao Dario, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio ragazzi, alle 18 calcio d'inizio, un Milan che inizia il 2017 con una Supercoppa in bacheca in più, frutto del bel successo di Doha, e proprio quello che è stato l'ultimo protagonista di quella vittoria, Pasalic, dovrebbe essere la novità di Montella nell'undici iniziale, un Montella che evidentemente consolidate alcune certezze prova ad aumentare la qualità a centrocampo. Altro giocatore al centro dell'attenzione generale è Carlos Bacca, ormai a digiuno da troppe settimane, che proverà a sbloccarsi contro questo Cagliari che in attacco si affida alla coppia Farias-Sau. In porta c'è Rafael, perché Storari è in procinto proprio di passare in rossonero e diventare così il secondo chioccia di Donnarumma. E parte in panchina l'altro grande ex della serata, Marco Borriello. Calcio d'inizio alle 18. Temperatura San Siro? Diciamo quella dell'atmosfera, c'è un discreto entusiasmo perché la vittoria di Doha ha riscaldato gli animi, invece qui fuori dallo stadio fa un bel freschetto, direi intorno allo 0 un grado. Vabbè, insomma, meglio di quanto si è visto ieri a Napoli. Ancora bene. Sì, meglio. Due gradi sotto lo zero. Allora Dario, resta lì, ovviamente poi torneremo anche nel prepartita a collegarci da San Siro con i tuoi ospiti, con le tue testimonianze. Aspettiamo anche la voce di Spalletti, di Inzaghi, di questo dopo partita, di questa giornata. Tanto per la cronaca, io e Giovanni Capuano ci siamo già divisi sulla regolarità sul gol del Crotone. Del gol del Crotone, secondo me era fuori gioco per un piede. No, era assolutamente regolare. Ma poi lo vediamo, non è a rigore, come avrebbe detto, come dirà Cesari domani a Tiki Taka, quello assegnato alla Lazio, ma comunque poi sbagliato da Biglia che l'ha tirato sulla traversa. E c'erano anche un paio di rigori in Genoa-Roma. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Benissimo, ah, benissimo. Se vuoi ti do alcune delle sentenze, insomma, di questa giornata che è pur sempre la fine del girone d'andata. Sì, vai. Allora, il campionato corre tantissimo. Se tutto proseguisse come adesso, per andare in Champions League servirebbero dai 76 ai 78 punti, che vuol dire, insomma, quasi sopra media se si eccettua l'anno scorso. Per andare in Europa League ne servirebbero 66-67 e per vincere lo scudetto bisogna tassativamente andare oltre quota 90, perché le grandi continuano a vincere, l'hanno fatto anche oggi, dicono gli amici, un po' di fondo schiena, prendendo dentro anche il Napoli ieri. Io non so che sintesi fai tu di questa giornata, Pier. Sì, un po' di fondo schiena, premesso che io al fondo schiena non ci credo, però sicuramente l'Inter e il Napoli hanno vinto due partite bruttine, no? Dal punto di vista per l'Inter, secondo me sul piano del gioco è un passo indietro, poi è ovvio che è una grande vittoria Udine, perché l'Udinese ha giocato bene, sta bene e quindi Pioli giustamente se la gode. E per quanto riguarda il Napoli, stesso discorso, è chiaro, una partita condizionata molto da un episodio, poi d'accordo c'era anche il rigore su Callejon, però insomma è chiaro che quando tu sei in quella difficoltà lì, sotto 1-0, te la rischi. Certo, sono vittorie poi che pesano, perché sono vittorie sporche. C'è Spalletti, i microfoni di Mediaset Premium. Tutte quelle cose che gli avevamo detto come piccoli difetti oggi sono stati la qualità per portare a casa la partita, per cui gli vanno fatti i grandissimi complimenti. Una crescita importante anche in tantissimi uomini. So che lei non ama parlare di certi singoli, però voglio dire, la prestazione di un giocatore come Fazio, che all'inizio era guardato anche con un certo scetticismo, è diventato un perno fondamentale della difesa, segno di una crescita proprio collettiva di questa squadra. Sì, oggi hanno fatto bene tutti. Lui non è la prima partita che fa su questo livello, per cui un ribadire, ma quello che è stato fondamentale è vedere tutta la squadra lottare. È stato un piacere essere lì a bordo campo e trovare quelle qualità che a volte mi avevano dato dei dubbi, invece ora sono contentissimo di avere la completezza di quelle che sono le caratteristiche poi durante la partita che la squadra ha messo avanti. Così si ricomincia. Insomma, questo è Spalletti, che mi pare legittimamente soddisfatto. Nelle ultime 6 partite, carissimo Pier, la Roma ne ha 25, ha perso solo lo scontro diretto con la Juve a Torino, che ci può stare. Cioè, mi sembra che sia davvero l'anti-Juve. Sì. Per quello che ha detto il girone d'andata, sicuramente sì. Nel senso che io sono un po' deluso dal Napoli, mi sarei aspettato qualcosa di più. Poi il Napoli è passato bene il girone di Champions League, ha tante prospettive secondo me importanti, però alla fine, se noi facciamo un ragionamento su quello che era il punto di partenza, secondo me il girone d'andata del Napoli non è così clamoroso, anzi c'è stato un passaggio a vuoto pesante dovuto a un infortunio, ovviamente anche con una componente di sfortuna, perché nessuno poteva immaginare che Milik si facesse male, però sì, insomma, sicuramente come continuità la Roma, lo dice anche la classifica, è stata la squadra però, scusa, più vicina. Se la Roma è stata la squadra più vicina e il Napoli è stato deludente, sono 3 i punti che le separano, compreso l'infortunio di Milik, i passaggi a vuoto, il momento di crisi, eccetera, eccetera. Cioè, tutto sommato, mi sembra che al Napoli non sia andata malissimo. Adesso c'era il mercato. Insomma, 3 punti con le sfighe che ha avuto il Napoli e che la Roma ha avuto solo in parte, oggi è stata anche fortunata, al di là di quanto dice Spalletti, perché ha giocato una partita molto complicata, cioè Dzeko che ha fatto una cosa meravigliosa, una volée meravigliosa finita sul palo, poteva anche terminare con un risultato più rotondo, però insomma Napoli ha 3 punti dalla Roma, se il Napoli ha deluso vuol dire che sarà una bella corsa per il secondo posto. Ma questi no? viaggiano sulla Napoli, linea degli 80-82 punti, il ragazzi. Napoli, esatto, ha deluso fino a un certo punto, come anche la Roma ha perso delle occasioni, cioè a me sembra che alla fine questo girone d'andata abbia confermato quello che si poteva immaginare, cioè c'è una squadra comunque più forte delle altre e se vogliamo la notizia è che non c'è questo dominio così clamoroso, anche se è chiaro che c'è oggi un'illusione ottica, perché in questo momento la Juve ha 2 partite in meno rispetto ovviamente a Roma e Napoli, e sono 2 partite con tutto rispetto in casa col Bologna e a Crotone, quindi sono 2 partite si possono fare 6 punti e girare a 48. Aspetta Pier, ti fermo un secondo perché abbiamo già il traffico, però comincio a salutare Luca Telese che ci ha raggiunto. Ciao, ciao Luca. Mi dici Flash se ci credi o no? Perché insomma Spalletti ha l'occhio di quello che ci crede, eh? Queste sono vittorie pesanti quelle di Genova. A parte il fatto che è una scommessa per tutto il campionato, ma non è chiuso, non è un campionato chiuso. C'è uno scontro diretto, c'è la Roma che malgrado quello che ho sentito che dicevate mi sembra abbia giocato una partita gladiatoria, cioè magari avesse giocato così a Empoli. Quindi una grande partita da Roma e forse Napoli ieri era un po' più in difficoltà di quanto non dica il risultato con la Sampdoria. Allora, abbiamo il traffico 800 24 00 24, visto che state già chiamando in tanti, poi diamo spazio anche alle vostre telefonate. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Oh, mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Tutti convocati. Ma se si aprissero le possibilità, lei andrebbe mai alla Juventus? Che domandina facile. Ora mi coglie di sorpresa, però io faccio questo come lavoro, sono un professionista. Non vedo perché ci metta la Juventus e basta, ci poteva mettere la Fiorentina, l'Inter, il Milan. Io faccio questo come lavoro. Se continuerò ad allenare vado da tutte le parti. Bravo. Questo Spalletti ieri, bravo. Io non lo so. Luca Telese, a te che effetto ha fatto? Ma scusami, no, lo chiediamo. Ma rimandiamo il capello Nathan, certo, che disse alla mai Juventus, alla Juve. Mai alla no, Juve. Però poi gli equilibri sono fragili, manchi un paio di risultati e alle volte queste frasi poi ti tornano indietro. Luca? Ma io penso che Spalletti questo sia il pane suo, lui deve trovare 5 titoli, 10 titoli in ogni conferenza stampa, deve animare, deve rinnovarsi il contratto, è un artista e quindi dice anche questo, ma non vedo niente di serio, niente di probabile e vi ripeto, il campionato a costo di sembrare scemo è aperto, segniamo questa data. Sì, ma mi spiegate tu Pierluigi Pardo, che tra l'altro conosce bene l'ambiente di Roma, mi spiegate perché è un allenatore che nell'anno solare 2016 ha fatto 86 punti, è il quarto in Europa, che sta viaggiando oltre gli 80 punti di media in questo campionato, deve sentire il bisogno comunque di dire una frase così, comunque di sottolineare che la Roma non ha potenzialità come gli altri? Luca, Pier? Perché il problema della Roma è la sua società. Ritorniamo al teorema Garcia, quello su cui Garcia si è giocato la panchina, la famosa conferenza stampa in cui disse voglio essere alla pari della Juve, non siamo alla pari. Se leggo ancora oggi nei giornali che si parla di un mercato di Manolas per 35-40 milioni di euro, mi sembra una follia. Cioè la Juve su Bonucci costruisce un decennio, su Chiellini costruisce un decennio. Qui sembra che la Roma non veda l'ora di valorizzare un centrale per venderlo e questa non è una logica da squadra poi il campo dice una cosa diversa, dice che la Roma è l'anti-Juve, che siamo a metà di una stagione che può regalare delle soddisfazioni, che c'è continuità. Pazienza, ragazzi, la Roma è l'anti-Juve per questo effetto ottico della classifica, perché Io non sono d'accordo con Luca Tenese, che fa benissimo a dire quanto dice, però la classifica è un ologramma, con le due partite della Juventus ancora da giocare. Aspettate che abbiamo recuperato, che la classifica è un ologramma quando la Juve era 8 punti indietro, no? E allora anche adesso che è 7 punti avanti, con uno scontro diretto ancora da giocare, con una situazione della Roma di grande forza, perché in passato queste partite le pareggiava al 90esimo, vedi Torino dell'anno scorso, io credo che nulla sia chiuso. Aspettate che vi faccio sentire un attimo Simone Inzaghi, microfoni di Mediaset Premium. Difficoltà, ma penso che alla fine sia una vittoria strameritata e chiudiamo il girone di andata con 37 punti, un ottimo bottino, e dobbiamo adesso ricominciare il girone di ritorno come abbiamo chiuso l'andata. Tu da attaccante lo hai sempre giustamente difeso per quello che ha fatto in campo, però ritrovare anche il gol per Immobile è molto importante da un punto di vista psicologico, e poi hai confermato quello che dall'inizio della stagione hai fatto, anche oggi un esordio, il Baby Rossi. Sì, diciamo che aver ritrovato Immobile, ma non abbiamo mai perso, perché Immobile insomma per noi è sempre stato importante anche in queste partite che non ha segnato, poi è normale, è un attaccante, lui ci soffre quando non segna, sono contento che il gol della vittoria l'abbia fatto lui, sono contento anche per l'esordio di Rossi, perché è un ragazzo che sta facendo molto bene, che sta crescendo, che si è meritato questi esordi. Adesso toccherà a lui impegnarsi, rimanere con noi per cercare di mettermi in difficoltà per poter giocare ancora qualche volta. Questo Simone Inzaghi, che merita soltanto applausi, la sua Lazio gira a quota 37 punti. Alzi la mano, a parte Pierluigi Pardo, chi avrebbe scommesso una lira su una Lazio quarta, insomma, e in questa posizione di classifica. Pier, la Lazio è forte. Voglio dirvi, non è che voglio fare il fenomeno, c'è sempre un po' di sottovalutazione che deriva dal fatto che mediaticamente la Lazio è fuori dal circuito delle grandi di tipo tradizionale, però è una squadra forte, e sicuramente ha vissuto un'estate complicata, ma in realtà poi alla fine è stata la sua grande fortuna, nel senso che poi, premesso che Bielsa è un grande personaggio, sicuramente... No, merita il massimo rispetto e sarebbe stato un arricchimento per il calcio italiano avere un personaggio come Bielsa, però metti un allenatore comunque di belle speranze, che conosce l'ambiente, in un contesto collaudato e i risultati arrivano. Poi la squadra è buona, Poi tutte le volte in cui la Lazio ha avuto la possibilità di fare il salto definitivo di qualità, questo salto è mancato, ha rischiato anche oggi, ci racconta un po' il suo limite, cioè la squadra che poi quando deve giocare contro la Roma nel derby quasi la favorita, perché in quel momento sembrava favorita la Lazio, con la Juve, col Milan, con l'Inter, poi torna a casa un po' delusa, però anche lì, voglio dire, Inter-Lazio è una partita secondo me nel primo tempo quasi dominata dalla Lazio, poi l'Inter ha stravinto della ripresa, per carità, però insomma non mi sorprende, ecco, la verità è che non mi sorprende. Mi dite in 30 secondi però tutti e due, Pierluigi Pardo e Luca Telese, se secondo voi Spalletti sia anche mezzo candidato per la panchina della Juve. Poi lo riprenderemo dopo le 18 il tema, perché sentiamo anche Allegri. Luca, Pier? Ma io penso proprio di no, penso che sia lo spallettismo, cioè questa capacità eclettica di ventilare qualunque cosa e di giocare su più tavoli, perché lui è un allenatore europeo, che quindi... Vedi, la cosa per cui ho pensato non fosse vero è che subito dopo ha detto perché non la Fiorentina, se avesse detto perché non il Barcellona, perché non il Real Madrid, le ambizioni di Spalletti sono enormi, secondo me lui vuole continuare il ciclo a Roma, ha dei giocatori della squadra che ha costruito che stanno esplodendo, ha investito su Emerson Palmieri che era un sedicesimo senza arte né parte, oggi ha giocato un partitone, ha trovato un portiere che ha voluto all'inizio anno, Szczęsny, oggi ha fatto una parata che ha salvato la partita, e ha trovato questo Facchi, un difensore centrale pagato 1,2 in prestito, 1,2 milioni, che anche oggi ha fatto un partitone. Sì, però ragazzi, io vi chiedo entrambi, ma voi con molta onestà cosa avreste risposto a quella domanda? Ma certo, chi è che dice non andrò mai alla Juve? Come? No, ma chi è che direbbe non andrò mai alla Juve? Appunto, Cappello l'aveva detto. Uno è ancora no, esatto, poi c'è andato. No, e poi c'è andato, appunto. Detto col massimo rispetto, che Spalletti, ma giustamente, legittimamente, è sempre stato un allenatore molto attento, no? Nel senso, non è un allenatore che ha mai fatto delle crociate, non ha mai aderito in certi momenti particolari all'ideologia, esatto, questo è evidente, cioè da sempre, quindi non mi sorprende per nulla questa cosa. E che nella testa di Spalletti ci possa essere il pensiero di andare un giorno alla Juve questo ci sta, ma ripeto, alla Juve come al Barcellona. Cioè lui da questo punto di vista è un professionista e credo poi che lui abbia fatto tutta una serie di battaglie, una quella su Totti, sulla quale la città si è molto divisa, per tra virgolette normalizzare Roma, la sua passione che è incredibile, con il suo entusiasmo che è incredibile, però nel cercare di normalizzare certe situazioni. E quindi devono digerire anche che lui dica che insomma che andrebbe tranquillamente, se Conte l'ha detto alla Juve, che avrebbe allenato l'Inter. Allegri allo stesso modo potrebbe dire tranquillamente che andrebbe alla Roma. La cosa non mi sorprenderebbe, la dimensione di questa squadra, una dimensione talmente grande, talmente sarebbe curioso, sai, se gli facessero la domanda, sentire come risponde, non tanto cosa pensa davvero. Perché no, ragazzi, come risponde? La Roma è una grande come risponde? La Roma è una grande squadra, Roma Napoli. Salvare la partita. Enrico in attesa del Cagliari. Io di Teresa. Che non parliamo mai del Cagliari. Se pareggia oggi col Milan. Se pareggia oggi col Milan va a 24 punti, sta a metà classifica. Anche per il Milan vale il discorso dell'orogramma. Allora, aspettate, potrebbe avere 6 punti in più rispetto a quelli che segna la classifica oggi. Ma difatti, io l'ho detto, la zona Champions in questo momento viaggia tra i 76 e i 78 punti, ma dipende proprio dal Milan. Intanto saluto Luca Terese, grazie. Ciao, Luca. Ciao. A presto. E saluto anche Nando Orsi, che invece ci ha raggiunto, anche lui reduce da Udinese Inter. Ciao Nando, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera. Allora, una battuta veloce di Pioli dopo la partita. La squadra che soffre e che ribalta questo tipo di risultato vuol dire che comincia a essere una grande squadra? Può essere una squadra competitiva che può giocarsi ogni partita con la consapevolezza che c'è da lavorare, c'è da fare, ma che abbiamo le qualità per poter vincere le partite. Quindi questo credo che sia la base sulla quale possiamo costruire il nostro lavoro. Dobbiamo cominciare le partite meglio, perché insomma andare sotto non è sempre poi così facile di metterle a posto, e senza il duro lavoro di tutta la squadra non si va da nessuna parte. E adesso archiviamo questa vittoria e pensiamo alla prossima partita, perché noi possiamo solamente fare così. Allora, vi do la statistica che avevo promesso, ascolta bene per Luigi Pardo. Dopo l'esonero di De Boer, compresa la partita di Vecchi, quindi dalla 12ª giornata in poi, l'Inter sta viaggiando a 2,37 di media, che spalmati su un intero campionato, se si partisse dalla prima giornata, fa quota 90. Ora, voi al di là della valutazione che do io, cioè che l'Inter ha buttato via letteralmente 3 mesi con un tecnico che non ha capito nulla di quello che aveva in mano, però voi mi dovete dire se quest'Inter è una squadra potenzialmente da scudetto, da Champions League, perché questo dicono i numeri. Pier, Nando Orsi, l'avete vista oggi? Per me no. Anche per me è una buona, per me è una buona squadra da Europa League, perché secondo me Roma e Napoli hanno qualcosa in più, e nelle 4 vittorie di Pioli, che merita un applauso grande con, non lo so, come la Pinetina. Ok, però sono 5, sono 5 compresa quella con la Fiorentina. Sì. No, io dico nelle 4 vittorie consecutive, delle quali assolutamente bisogna riconoscere i meriti dell'allenatore, che ha normalizzato la situazione, sta facendo benissimo e si merita l'applauso, però sono 4 partite. Sono 4 partite con una trasferta a Udine, con lo scontro diretto con la Lazio. Sì. Insomma, secondo me, io non sono d'accordo con Pardo e con Orsi, perché secondo me potenzialmente l'Inter è una squadra da Champions League. Era una squadra, forse, un'altra cosa. Chi è che è caduto? Orsi. È caduto Nando Orsi, adesso lo recuperiamo. Roma e Napoli sono più forti, e fra l'altro adesso, cioè magari se si ripartisse da zero, ci essere anche una discussione, ma con il vantaggio che Roma e Napoli hanno preso, secondo me hanno qualcosa di più rispetto all'Inter. Sì, sì, questo è indubbio. Le 4 vittorie sono sicuramente un passaggio importante. No, quello che volevo dire in maniera un po' polemica, tanto per non fare 0-0, è che sono 4 partite nelle quali comunque sono stati anche degli episodi abbastanza favorevoli, nel senso che oggi io la partita l'ho raccontata, l'Inter ha vinto, è giusto che Pioli sia felice, ma Udinese ha avuto 7 occasioni, sì, contro il Genoa non aveva brillato nel primo tempo, contro la Lazio nel primo tempo poteva stare tranquillamente sotto, per cui fa benissimo Pioli a godersi questi 12 punti. Tra l'altro adesso c'è un calendario molto molto interessante, perché ci sono Chievo, Palermo e Pescara, quindi l'Inter mi aspetto di trovarla per la sfida contro la Juve molto, molto più in alto in classifica, e per carità, cioè è tutto giusto, è tutto bellissimo, e oggi i tifosi dell'Inter devono essere strafelici, però secondo me queste 4 vittorie non sono 4 vittorie di una squadra completamente trasformata, sono quattro vittorie di una squadra che si sta trasformando. Il merito è di Pioli, o se vogliamo il demerito sono anche di De Boer. Io, sapete, ho criticato l'esonero di De Boer da un punto di vista ideologico, nel senso che se tu prendi un allenatore, tra l'altro oggi c'è una costruzione della curva nord per De Boer, se prendi un allenatore il 10 agosto per fare la rivoluzione e non puoi non dargli così fiducia dopo due mesi farlo fuori, secondo me. Sì, però sai, sono passati anche due mesi da quando è arrivato Pioli, anzi anche qualcosa meno. Io Pioli non l'ho mai sentito dire una volta. Pioli è molto più bravo. Non ho mai sentito dire una volta Pioli, sono qui da poco tempo. Allora, però facciamo una cosa, perché Nando Orsi è in treno, stiamo facendo fatica ad agganciarlo, adesso ci riproviamo, abbiamo una piccola pausa, Pierluigi Pardo resta lì, io adesso voglio anche gli ascoltatori, poi torniamo da San Siro con il nostro Dario Ricci per un preview su Milan-Cagliari, ci sono anche le formazioni ufficiali, torniamo subito, 800-24-0024. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Convocati. Ma non è tanto tempi, ma situazione diverse, non ritorniamo anche qui sul trito e ritrito. Quindi eventualmente in entrata e in uscita lo sapete, a parte questo eventuale scambio di portieri, ci potrebbero essere Vangioni e Rodrigo Eli. Noi ricordo che dopo l'uscita di Luis Adriano, che dopo è scontata, mancano le visite mediche, ma non mi dicono i medici nostri che è sanissimo, quindi non dovrebbero, ha firmato tutto con noi, con lo Spartak eccetera, quindi credo che vada in porto, rimaniamo in 27, se dovessero uscire due giocatori siamo 25-26, va benissimo, non giochiamo le coppe europee, quindi numericamente siamo coperti, davanti alla difesa ribadiamo l'allenatore, la società hanno piena fiducia in Bertolacci, oltre che in Locatelli evidentemente, poi ricordo che noi ci auguriamo che fra due mesi e mezzo ritorni Montolivo, quindi non si vede perché dovremmo andare a prendere un centrocampista centrale avendo un giovane di talentuosissimo che fa 19 anni oggi, avendo un giocatore secondo noi che può fare lì molto bene che Bertolacci e avendo Montolivo che auguriamoci che entro la fine del mese di marzo possa, forse anche prima, non lo so, non voglio fare il medico, possa ritornare fra di noi. Premium Arena. Questo sì, è Gagliani, ai microfoni di Premium, prepartita di Milan-Cagliari. Vado subito a San Siro dal nostro Dario Ricci. Eccoci qua. Posso fare sintesi? Quindi Gagliani può tornare in vacanza in Brasile. No, sì. Se il mercato del Milan è quello che ha delineato, aspettando Montolivo fra due mesi e mezzo, magari quattro, e con enorme gioia dei tifosi rossoneri, come sappiamo. Dimmi, Dario. Allora, chiediamo subito a Franco Ordine, inviato del giornale, di decriptare le parole di Adriano Galliani. Quali sono state le bugie e qual è la verità? Qui bugie non ce ne sono, qui la verità è stabilita da un accordo che io definisco poco utile per il Milan, perché l'accordo è quello che il Milan deve fare un mercato a saldo zero, il che vuol dire che essendo uscito a zero Luis Adriano può entrare soltanto qualcuno a zero, che i prestiti di Eli Rodrigo e di Vangioni non saranno sicuramente contraddistinti da un incasso di cifre, e trovo che tutto questo, soprattutto per i prossimi proprietari, sia un gravissimo autogol. Perché a questa squadra basterebbe non tantissimo, non ci sarebbe bisogno di Pirlo o Tevez per rendere questa squadra più competitiva per il terzo posto, basterebbe un mini finanziamento, e non capisco perché, avendo per esempio già pagato 15 milioni circa per il premio di Ioa, non possano spendere altri 15, altri 20 per garantire un eventuale investimento che se dovesse andare bene la stagione potrebbe comportare il piazzamento in zona Champions, che vuol dire tanti soldi per il prossimo tanti soldini. Sì, Pier, la pensi così anche tu? Sì, il Milan è in quella situazione di chi può investire o di chi potrebbe investire, nel senso che davanti a sé ha uno scenario non facile. Perché, ripeto, io penso che Roma e Napoli abbiano qualcosa in più. Però può scattare, no? La curiosità golosa di chi dice ma se faccio l'investimento adesso poi vado in Champions me lo sono straripagato, e però questa cosa probabilmente non succederà. Sì, insomma. Beh, le posizioni sono anche delineate. Devi anche costruire per il futuro, cioè in questo momento non si tratta di buttare delle fish sul tavolo verde della Champions League, si tratta anche di ricostruire, però 0 più 0 più 0 più 0 fa sempre 0, sì. Ha ragione Franco Ordine. Sì, e non è detto che possa bastare a ripetere nel ritorno quello che abbiamo visto di buono del Milan in quest'andata. Torno a San Siro, intanto Dario, se mi dai le formazioni ufficiali, proprio a partire dal Milan, così ne parliamo anche con Franco Ordine. Guarda, formazioni ufficiali che sono sostanzialmente quelle confermate alla vigilia. Milan che lancia dal primo minuto Pasalic, e mentre recupera il referto che era nascosto tra guanti e sciarpe perché la temperatura non è certo mite, chiedo a Franco. Franco, Pasalic dal primo minuto è un segnale che Montella lancia alla squadra e anche alla società, cioè è il momento di mettere, trovate delle certezze con una prima coppa in bacheca, anche un pochino più di qualità per affrontare certe partite? No, questo, cioè, secondo me la chiave di lettura è lo schieramento eccessivamente offensivo, perché la novità rispetto al finale della scorsa stagione è il recupero, il rilancio di Niang, che comporta l'arretramento a metà campo di Bonaventura, e poi a causa della contusione di Kučka gioca Pasalic anziché Kučka. Però obiettivamente è una squadra molto sbilanciata dal punto di vista offensivo, che dovrebbe tendere appunto a fare sua la partita, insomma, e a comandarla, mentre invece voglio vedere come e se cambierà il Cagliari, perché il Cagliari ha avuto questo record negativo dei gol subiti in trasferta. Voglio vedere se oggi è il solito Cagliari del suo allenatore, oppure se ci sono state delle correzioni in corsa. Milan che si schiera con Donnarumma in porta, De Sciglio e Abate sulle fasce, Paletta e Romagnoli difensori centrali, poi a centrocampo Suso, Niang e Pasalic, Locatelli e Bonaventura a centrocampo. Sì, c'è anche Locatelli, E poi c'è il tridente davanti, chiaramente. Chiaro. Esattamente, con Bacca che deve interrompere questo digiuno. Allora, saluto te Dario, ma tanto ci ritroviamo tra qualche minuto e racconteremo tutto questo Milan-Cagliari. Saluto Franco Ordine, ciao Franco. Saluti. No, ciao ragazzi. Alla prossima. Pier, allora, abbiamo tanti amici che ci stanno chiamando da casa. Andrea, sì. Da Lodi, 800-24-00-24. Andrea. Buonasera, eccoci. Volevo dire un paio di cose. Stiamo tornando da Udine. Ho visto due giocatori che mi sono piaciuti molto dell'Udinese. Uno è il terzino che mi sembra che si chiama Samir, l'altro è il numero 14, quello, l'autore del gol dell'Udinese. La mia domanda è: non capisco come mai una squadra come l'Inter non riesca a trovare due perfetti sconosciuti che giochino decentemente, quando ha quattro terzini che non ne vale uno. Vabbè. E l'altra domanda a Pierluigi Pardo ha prima menzionato dello striscione della curva, si era rivolto a Frank De Boer o a qualcun altro. Grazie molto. Sulla prima domanda rispondo io, perché l'Udinese fa quel mestiere lì. Sì. L'Inter dovrebbe fare un mestiere diverso, però poi si possono anche trovare perfetti L'Inter sconosciuti che sono forti. Da tempo ormai quel mestiere lì. Pier. Sì, io sulla prima domanda dico anche che con tutto l'affetto e il rispetto per l'Udinese, l'Inter è un'altra cosa, nel senso che Samir oggi mi è piaciuto molto, Young ha giocato benissimo, lo stesso Kums è un giocatore interessante, cioè sicuramente l'Udinese ha delle qualità, non è l'unica squadra che ha queste qualità e questi giocatori interessanti, ma io non sono così certo che Kums o Yankto o Samir messi in una grande squadra troverebbero una continuità di rendimento. Cioè, oggi Samir ha fatto una grande partita, quindi oggi Samir veramente ha rubato l'occhio, come si dice in gergo, no? Yankto pure, è una squadra molto fisica, dei bei giocatori, però insomma, sai, Pierluigi, dall'Udinese poi ne abbiamo visti uscire tantissimi, no? Da quelli davvero forti, da quelli davvero forti a quelli che poi si sono confermarsi. Esatto, e a quelli che poi si sono confermati. E paradossalmente, e di contro ti dico che se tu vedessi D'Ambrosio e Ansaldi, che fra l'altro stanno facendo bene in questo momento, no? O magari lo stesso Nagatomo a Udine, probabilmente farebbero bene. No, nel senso che è comunque più semplice il tipo di contesto, c'è più pazienza, se fai un errore non muore nessuno, cioè è un altro sport, da questo punto di vista è un altro sport. Lo striscione per chi era? Così chiariamo l'idea ad Andrea. Lo striscione era riferito a Frank, penso che fosse riferito alle dichiarazioni di De Boer che ci sono state le ultime 48 ore. Cosa diceva? Perché non, magari perché non la, tutti la, l'hanno Frank, letto. La Nord è con te, adesso facciamo una ricerca anche magari su qualche sito, giusto per non dire sciocchezze, però facciamo è un controllo. Fuori nei primissimi minuti della partita c'era un riferimento a Frank, credo che, si, riferito, che, insomma, si, presume, che si presume fosse per Frank De Boer. Si presume fosse per Frank De Boer. Sì, avete visto? Sì. Yeah. Oggi mia filosofia di gioco da grande squadra. No, non l'abbiamo vista. Oggi c'è la piove sulla panchina. Yeah. Sì. Voglio sempre vincere. Sì. Abbiamo facendo remontata in classifica. No, ma non è così. E allora, yeah. Bisogna sempre giocare per ganare. Ganare, vincere. Pareggiare. No, vincere. Mio progetto. No, ma il tuo progetto non c'è. Mio progetto giusto. Facciamo il traffico, dai. Squadra. Traffico. Yeah. Traffico. Yeah. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Nicola dalla provincia di Napoli. Nicola. Ciao, sono Nicola da Ischia. Complimenti. Eccoci. Grazie per lo spazio. Una domanda tecnica per quanto riguarda ieri sera per Luigi e lei, dottor Zen. Sì. Il dottor Ferrero. Ieri sera perdonami, il dottor Ferrero, il presidente della Sampdoria, presidentissimo della Sampdoria, sì. Ieri sera ha fatto una delle sue ennesime sparate. Io parlo personalmente da tifoso del Napoli, sì, è vero, però nessuno ha ricordato che c'erano due rigori eclatanti. Due rigori. Uno su Mertens e un altro su Cagliacon, lì le immagini sono chiarissime. Uno sportivo onesto come Pepe Reina ha detto è stato toccato, ma anche se non è stato toccato, una domanda tecnica, c'è già solo l'intervento, lì non va ammonito come, diciamo, perché comunque va a incorrere vicino al portiere, dà fastidio al portiere, questo diciamo è la mia domanda. Poi per quando è cioè domanda... se era a prescindere dal contatto no ammonizione, aspetta lì Nicola, Pier. No, non andava ammonito a prescindere. Però sono d'accordo che siccome ci sono stati anche episodi legati a Napoli, poi c'è stato un episodio, dai, quello di Calleon, quello di Mertens, onestamente non era rigore, però, poi insomma, con tutto il rispetto per Nicola. Questo io lo dico sempre, perché poi noi abbiamo magari qualcuno che può pensare alla malafede, e quindi io questa cosa della malafede la rifiuto a prescindere, perché se ci fosse stata la dimostrazione che non c'è stata la malafede, te la dai il rigore su Cagliacon che c'era, quindi però che quell'episodio lì abbia pesato a quel punto della partita è vero, cambiata, è vero ed è un episodio abbastanza clamoroso per la dinamica che c'è stata. È un episodio per il quale giustamente i tifosi della Samp si arrabbiano. Poi chiaramente. Allora, Pierluigi, Di Bello arbitrato male da tutte e due le parti. Appunto. Danno e si prendono. Questa volta Napoli, grosso modo, ha preso. Poi in altre occasioni capita di dare, allora si lamenta dall'altra parte. Siccome ci deve essere un'onestà intellettuale, no? Perché voglio dire, per esempio, la Juve. Non facciamo sempre il solito discorso. Ma sì. Abbiamo fatto giustamente trasmissioni sull'arbitraggio di Toro Juve dell'anno scorso, tutta una serie di situazioni. Ieri sicuramente la partita nella sua dinamica è stata condizionata da un episodio che è un errore che ha favorito per favorire il Napoli. Poi ripeto, secondo me la malafede non c'era, e lo dimostra in maniera scientifica il fatto che se ci fosse stata la malafede davano il rigore su Cagliacon, che oltretutto ci stava, quindi gli errori sono stati da una parte e dall'altra, però nell'economia della partita sicuramente quell'errore lì, per come sarà messa la partita, ha pesato. Questo credo sia indiscutibile, e non dirlo no, sarebbe sbagliato. E Reina sicuramente ha accentuato un contatto che non c'era. E sicuramente nel dopo partita, insomma, ha cercato di uscirne onorevolmente. Poi ognuno giudica se ci sia riuscito o no. Michele Plastino, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Michele. Che voto dai alla Lazio di oggi? 6, perché comunque aveva difficoltà obiettive di formazione, perché comunque sia ci ha provato fino in fondo, ha avuto moltissime occasioni, e portiere strepitoso dall'altra parte. Poi alla fine, voglio dire, Crotone se portava via il punto non avrebbe neanche rubato niente, perché ha giocato con le unghie e con i denti. Sono varie volte che Crotone esce male da partite che avrebbe forse anche meritato qualcosa di più. Però se andiamo ad analizzare la partita, il migliore in campo è stato il portiere del Crotone, su questo non c'è dubbio. Sì. Crotone che credo abbia perso due partite non meritate anche a San Siro con le due milanesi, sicuramente sì. Quella con l'Inter pur alla fine finita 3-0, però con gol proprio negli ultimissimi minuti. Ma secondo te qual è la prospettiva di questa Lazio che gira a 37 punti aggrappata al quarto posto? Poi vediamo cosa fa il Milan anche nel recupero, tra il quarto e il quinto posto. Diciamo, siamo già al limite delle ambizioni, oppure può immaginare qualcosa di più, oppure può Inzaghi chiedere qualcosa di più, visto che siamo in pieno mercato? Io non credo che siano nelle condizioni di poter chiedere qualche cosa di più, nel senso che sappiamo bene come in genere vanno i mercati a gennaio della Lazio. Io credo che Inzaghi stia facendo un lavoro eccezionale. Tra l'altro oggi, malgrado fosse stato sullo 0-0 fino all'ultimo, comunque il percorso di gioco si vede nella Lazio, e ne mancavano Felipe Anderson e Keita, non gente qualsiasi, soprattutto nell'armonia del gioco della Lazio, cioè due larghi che saltano l'uomo sono fondamentali. Quindi Inzaghi è indubbio che abbia fatto un ottimo lavoro. Certo, adesso bisogna vedere se la società ci dovesse credere, magari con qualche sacrificio in più, la Lazio potrebbe puntare anche un po' più in alto. È in una situazione per me di limbo, perché ha fatto di più di quello che pensavamo tutti, onestamente. Potrebbe fare ancora di più, ma potrebbe anche fare di meno. È in una situazione talmente strana che però non la vive con grandi pressioni Inzaghi. Penso che anche oggi, tra l'altro, io vedevo nelle immagini di Sky, non riuscivo a vedere il pubblico, ma mi sembrava che lo stadio fosse ancora più vuoto del solito, e tra l'altro sentivo dei boatini che sottolineavano l'azione d'attacco del Crotone, ci sono tanti calabresi, no? A Roma, per cui ormai la pressione Inzaghi non la sente da parte del gioca costantemente del delle amichevoli dal punto di vista dal punto di vista emotivo e ambientale. Sì, è vero. Pier, però, sì, prego, scusa, la prova veramente vera è proprio nella seconda partita in casa consecutiva, perché c'è l'Atalanta, che è una squadra che ha grandissima consapevolezza di sé. Sì, la prossima è una giornata particolare, perché c'è Lazio-Atalanta, c'è Fiorentina-Juve, c'è Torino-Milan, c'è Udinese-Roma, quindi non è una domenica banale. Pier, io credo che Inzaghi già è un miracolo se gli chiariscono alcune cose, i rinnovi Keita, Biglia, non gli smontano il giochino, anche dal punto di vista emotivo. Sì, oppure se glielo rimontano con interpreti nuovi, perché comunque questa società, che sicuramente ha mille difetti, e Michele è sempre perfetto, no? Nel raccontare quel tradimento che c'è stato, comunque insomma perché il rapporto non decolla, però da un punto di vista, secondo me, invece di scelte tecniche, è una società che sta facendo il suo, al netto dei budget che ovviamente non sono quelli della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli e nemmeno della Roma. Quindi chiaramente ha dei budget molto inferiori, ha dei fatturati molto inferiori, però il lavoro di scouting è un lavoro importante, tanti giocatori sono stati comunque trattenuti fino all'ultimo, alla fine se si vendono proprio quando c'è una grandissima offerta. Felipe Anderson, sappiamo che anni fa aveva delle grandi offerte ed è stato tenuto, e forse quell'estate lì, col senno di poi, poteva pure essere venduto per fare bingo, no? E poi per investire su tanti giocatori. Cioè, il lavoro è un lavoro eccezionale. Vale un po' il discorso dell'Udinese. Vale un po' il discorso dell'Udinese. La Lazio fa quel mestiere. Siamo a livelli superiori. Siamo a livelli superiori, però vale il discorso dell'Udinese. Cioè, non avrebbe senso adesso, a gennaio, vendere, monetizzare Felipe Anderson o Keita o un altro giocatore. Però anche tenerli così in scadenza e con situazioni complesse poi rischia di essere pericoloso. Prima di salutarlo, giro Michele Plastino un messaggio che è arrivato via SMS 349-238-6666. Chiede un amico se, alla luce degli ultimi risultati, diciamo da Pioli in poi, è più forte l'Inter o la Lazio. Michele, questa è una bella domanda. è veramente una bella domanda. Io credo che a livello quantitativo relativo ai giocatori sia più forte l'Inter. Però l'Inter sta cominciando ad avere una sua autostima e credo che invece nella Lazio ci sia già, e qui c'è stato il bel lavoro di Inzaghi, per cui io penso che adesso c'è un momento in cui stanno raggiungendoci. Si stanno raggiungendo. Prima era nettamente avanti la Lazio e nettamente in basso, no? Da questo punto di vista dell'autostima all'Inter. Adesso, sai, dopo le vittorie consecutive, dopo che vedi la luce, e apprezzo anche, voglio dire, il lavoro di Pioli, lo avevo apprezzato con la Lazio, lo apprezzo ora anche con l'Inter. Da questo punto di vista io credo che adesso si stanno un po' bilanciando. Anche le vittorie sporche danno autostima. Grazie Michele Plastino. Ciao Michele. Vittoria grazie, sporca ciao, è un'altra delle parole chiave di questa domenica, l'ha detta anche Spalletti parlando di Genoa-Roma, vale in parte anche per la Lazio. Abbiamo 40 secondi, carissimo Pier, ti do l'aggiornamento sulle nostre schedine. Io sto a 5. Tu stai a 5, io sto a 5. Pareggeremo perché per Milan-Cagliari, Juve-Bologna abbiamo lo stesso risultato, a meno che non vogliamo aspettare Pescara-Fiorentina, non lo so, dimmi tu, dove avevamo due risultati diversi. Dove io guadagno un punto sicuramente. Ma non lo so, io dipende. In questa domenica di vittorie sporche non è detto che la Fiorentina potesse vincere facile a Pescara. Quindi chi lo sa. Sentenza rinviata. Abbiamo sbagliato Chievo-Atalanta tutti e due, giusto? Abbiamo sbagliato Chievo-Atalanta tutti e due. Io ho sbagliato Empoli-Palermo, che tu invece hai azzeccato. E poi tu hai sbagliato Genoa-Roma, che io ho azzeccato. Sì. Comunque 5 su 7 per il momento, per tutti e due. Vediamo domani, facciamo il conto finale. Ciao Piera, domani dopo GR delle 14. Se voi ci sono comunque. Allora ti richiamiamo dopo GR delle 18. Torniamo tra un minuto, 800 24 00 24. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Andiamo, let's go. Tutti convocati. Adesso la squadra tatticamente è molto meglio. Bueno, adesso praticamente tutti lavorano e quando la squadra lavora insieme, per noi difensori è più facile. Prima avevo giocato troppo avanzato, troppo avanti e praticamente eravamo solo in 3-4 che difendia. E adesso lavora tutti insieme e praticamente tutta la squadra difende bene. Questo era Miranda oggi dopo Udinese-Inter, 800 24 00 24, prenotatevi, della serie siamo Deporti, in diretta fino tanto alle bene. 19. Ha detto, prima giocavamo tutti avanti, un calcio evidentemente poco logico per il calcio italiano, e insomma i risultati si vedevano, adesso difendiamo e ripeto, dalla dodicesima una partita di Vecchi e sette partite di Pioli, l'Inter viaggia a una media punti che in un campionato intero farebbe 90, e questo secondo me è il grande interrogativo di questa domenica, cioè se l'Inter aveva o no potenzialità bene, molto superiori a quelle che ha espresso. Ti ricordi bene, c'è anche Miranda, Pierluigi Pardo, Pier, anche tu ti ricorderai, Miranda aveva detto le stesse cose quando De Boer era ancora allenatore dell'Inter, sebbene praticamente esautorato. Sì, cioè, ma il grande mistero è perché si siamo buttati via tre mesi. No, ma sicuramente. Io ti ripeto, credo che nelle ultime quattro partite qualcosa abbia girato per il meglio. Cioè che l'Inter abbia fatto 12 punti fra Genoa, Sassuolo, Lazio e Udinese, secondo me è un po' tanto, così come magari in certi momenti prima qualche situazione non fortunatissima c'era stata. Però che ci sia stato un passo avanti è evidente, questo non ci sono dubbi. Quindi che l'Inter non valga la posizione in classifica che ha adesso, cioè oggi l'Inter è settima in classifica e l'Inter non è la settima forza del campionato, non c'è dubbio, da questo punto di vista è sicuramente al di sotto, quindi sicuramente se avesse avuto un cammino più regolare oggi sarebbe sul livello del Napoli, sarebbe sul livello della Roma, in quella situazione lì. Per me sinceramente pensare che possa recuperare 8 punti alla Roma e 5 al Napoli è un po' difficile, però vediamo, insomma, intanto sicuramente ha ricostruito la prospettiva. No, a proposito di De Boer, fra l'altro abbiamo fatto la ricerca che ti saluta, che ti saluta, aspetta, ti saluta. Salute Pierluigi Pardo. Che non voleva l'esonero. Sì, adesso dobbiamo ganare, vincere tre partiti prima di Juventus, sì, con filosofia d'equipo aggressiva. Glielo dici tu, Pier, che non è più lui l'allenatore. Perché lei sia rimasto tifoso dell'Inter, credo farà piacere a tutti i tifosi, però sì, dobbiamo vincere questo plurale, è un po' così, è un po' ridicolo, perché non è più l'allenatore. Dicevi Pier? No, che lo striscione, abbiamo fatto una ricerca e pare fosse invece dedicato a uno dei capi della curva, uno dei leader storici della curva dell'Inter, che credo abbia perso la mamma, quindi era un Frank che poteva depistare. Ci avevamo preso qualche minuto per fare una verifica. No, anche perché lo ricordiamo che a suo tempo la curva, se non sbaglio, si era espressa a favore di De Boer. In aperta contestazione con quello che era il caos in quel momento della società. Sì, quando se n'è andato c'è stato un ringraziamento così pro forma. Ribadisco, tanto per essere chiari, io ero contrario all'esonero per un discorso di logica, perché ripeto, se tu prendi un allenatore a metà agosto, il 10 agosto, e lo prendi di un'altra scuola calcistica, completamente abituato a una filosofia di calcio differente, che non parla la nostra lingua, lo prendi perché evidentemente ti piace tanto e vuoi costruire con lui un percorso di lungo periodo. Però se fai 14 punti in 11 partite, a un certo punto fai sintesi, vincere. Quante volte ti è capitato di fare la cazzata di comprare una camicia che non ti piace, che costava un sacco di soldi per 2 anni a metterla e poi non l'hai mai messa? No, però l'allenatore non è una camicia. No. Se ti sta stretta, ti sta stretta. Se continuiamo la cosa, ti dico che se tu compri una camicia voiana per andare a una cena, no, è una camicia molto particolare, molto diversa da quello che è lo stile, quando stai per uscire non hai più il coraggio di metterla, però lo potevi sapere prima, prima se ti avessero consigliato bene. Se pur sarà contento di essere stato paragonato a una camicia voiana, la scelta era una scelta, le piace? Sì, camicia del mio giocatore molto havaiano. No, non è vero. Allora, oggi avevano la maglietta havaiana, quelli dell'Inter. Allora, fermi tutti, andiamo un minuto, 30 secondi a San Siro, poi ci sono Roberto, Fabrizio e un altro Roberto da Milano che voglio assolutamente fare con Pierluigi Pardo, che poi ci saluta. Allora, Dario Ricci, San Siro, Milan Cagliari. Undicesimo di gioco, Giovanni, 0-0 ancora, un Milan che fa la partita, fa anche pressing, finora sono già 3 i calci d'angolo per i rossoneri, sul primo dei quali al secondo minuto c'è stato un bel colpo di testa di Romagnoli, altrettanto pronto Rafael a respingere la conclusione del numero 13 rossonero, pochi istanti fa una bella incursione di Niang, liberato da uno splendido colpo di tacco di Bonaventura, il passaggio poi per un Bacca che aveva perso il momento buono per concludere in porta, però tutta l'azione è stata fermata per un giusto fuorigioco. Undicesimo di gioco in questo istante, 0-0 tra Milan e Cagliari. Roberto dalla provincia di Vicenza, Roberto. Sì, pronto, buonasera. Posso mettere giù il telefono perché mi avete rubato tutti gli argomenti? No, resta con noi, dai. Trovano un altro, dai. Una piccola riflessione, volevo sapere cosa ne pensavate anche voi. Penso che sul discorso De Boer e Pioli, io sono un tifoso interista e oggi ho visto uno sprazzo della partita, proprio la sintesi. Ci sia stata una grossissima colpa della società, perché la scelta di Pioli è una scelta logica, cosa che non è stata fatta con De Boer. Non si può prendere un allenatore, metterlo lì e scatolarlo con tutti i giocatori e voler che tutto vada bene. Anche perché se gran parte della colpa è della società, io do una piccola colpa a De Boer, che è stata quella, secondo me, di voler fare un po' il sergente di ferro in una società in cui il sergente di ferro, se non hai le spalle coperte, non lo puoi fare. Lo puoi fare all'Ajax, che è un vivaio dove ci sono tutti i giocatori giovani che ti ascoltano, all'Inter un po' meno. Però io sottolineo, scusate, che Pioli è allenatore dell'Inter dall'8 novembre, quindi sono oggi 2 mesi, e ripeto, si può anche fare delle cose in 2 mesi senza continuare a ricordare che sono solo due mesi che sei qui e che sei stato preso e scatolato all'ultimo secondo. Però questo è il mio parere. Fabrizio dalla provincia di Alessandria. Grazie, io vorrei dirvi che ieri sera ho assistito a un grande gesto tecnico degno della migliore gang di Scampia. E questo è un campionato di mediocri mercenari. Il vero, diciamo, campione d'inverno si può dire Gasperini con la sua Atalanta. Tutto il resto mi sembra un baraccone di gabiboi, di pallonari, con troppi soldi, poche idee, dei confusi. Beh, insomma, sei ottimista, no? Ho capito bene con chi esattamente. Credo ce l'avesse con Reina. Credo ce l'avesse con Reina e la sua simulazione. E poi scusate. Il riferimento a Scampia che vuol dire? Siamo veramente fuori contesto. Diciamo senza problemi. Scampia sicuramente è un quartiere che ha i suoi problemi, ma è anche un quartiere che ha la sua umanità, le persone che si aggregano, insomma, dai, non vorrei che questo Scampia nascondesse un aspetto razzista, ecco. Sì, tutto qua. Ma poi tra l'altro per fare i complimenti a Gasperini e all'Atalanta, non è necessario. Per me Reina, l'ho detto un quarto d'ora fa, lo ribadisco, ha simulato e l'episodio è stato molto importante. Da qui a dire che... E qui ci fermiamo, non ci sono analisi sociologiche da fare. Quindi... Tantomeno nei confronti di un posto che ripeto, rimane un posto dove ci sono anche ovviamente tantissime brave persone che sono magari vittime di situazioni più complicate che in altre parti del mondo, e quindi meritano... se possibile ancora più affetto, ancora più rispetto. Questo è come la vivo io, avendo incontrato Don Aniello e le tante persone che vivono e che lavorano lì, premesso che poi i problemi sono in tutta Italia, purtroppo, non è che c'è solo una città che ha problemi, ma io poi sono anche dell'idea che i napoletani per bene, che sono la stragrandissima maggioranza, sono le prime vittime certe volte di certe situazioni particolarmente complicata. Sì, ma senza fare della sociologia, di bello arbitrato male da tutte e due le parti, certe volte si danno, certe volte si prendono. A Napoli un sacco di volte si sono lamentati a torto a ragione per altre situazioni senza la necessità di tirare in ballo altre questioni. Secondo me è giusto, perché siccome spesso appunto a Napoli, anche a Roma, insomma, le inseguitrici hanno criticato tutta una serie di situazioni in casa Juve, allo stesso modo quando succede qualcosa in una partita che si mette così male che la condizione, credo che sia intellettualmente onesto dirlo e riconoscerlo, è un fatto proprio di pura onestà intellettuale, altrimenti poi si fanno due pesi e due misure e non vi va bene. Però poi ripeto, Scampia che c'entra? Dai. No, c'entra nulla. Dai, prendiamo ancora un minuto al traffico perché c'è Roberto da Milano. Roberto, buonasera, innanzitutto di tre, buon anno e complimenti per la trasmissione. Vai. Io direi, adesso non so cosa ha intenzione la società, leggo sui giornali che Donnarumma vorrebbe essere venduto, non vorrebbe far cassa perché la società cinese dice che non vuole fare pazzie, sentivo Radio Giornale. No, guarda, però mi sa che hai capito malissimo, cioè i cinesi Donnarumma lo terrebbero anche domani mattina e per i prossimi 30 anni, i Galliani pure. Allora, vedrà, perché è una situazione contrattuale particolare quella di Donnarumma, con un procuratore molto abile a spostare i giocatori. Roberto, guarda che ne leggeremo delle così, belle, ma non è così. Meglio così, no, avevo paura a questo, perché no, poi ritorno anche a dire, anche sono contento che sta puntando sui giovani, Locatelli, si parla di questo, anche perché poi se non fa casa, farà casa magari con la vincita di Adriano o Carlos Bacca, non si sa ancora. Sì, ecco. Sì, cassa zero, abbiamo sentito prima Galliani. Cassa zero. Siamo in ritardissimo sul traffico, allora Pier, a domani dopo girare l'Europa delle 14. Ciao Pier, rientriamo anche con San Siro dopo, adesso il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Tutti convocati. E allora andiamo subito a San Siro dal nostro Dario Ricci. Milan Cagliari. 18esimo di gioco, ancora 0-0, Milan che continua a gestire il pallone, avvolgente la manovra dei rossoneri che molto spesso portano sia Pasalic che Bonaventura ad affiancare, e lo stesso Niang ad affiancare Bacca al limite dell'area. Da lì nascono dei fraseggi molto interessanti e finora è mancato davvero solo l'ultimo passaggio, come pochi istanti fa al 16esimo, quando c'è stato un bel filtrante di Locatelli per Pasalic che ha mancato di un non nulla l'aggancio buono. Sempre al 16esimo, pochi istanti prima, una bella conclusione da fuori area, un destro di Niang che in questo primo scorcio di partita sembra particolarmente pimpante, proprio in questo momento appoggia in posizione centrale per Locatelli, pallone non di molto alto sulla porta della, sulla traversa della porta difesa da Rafael. 19esimo di gioco in questo istante, Giovanni, ancora 0-0, seguiamo questa azione perché Abate cross al centro, libera a fatica la difesa cagliaritana, retrocede addirittura Sau al limite dell'area, palla che resta lì, prova la girata Niang, alla fine tocca Locatelli ma in fallo laterale per i rossoblù. 0-0 ancora tra Milan e Cagliari a San Siro quando siamo al 20esimo di gioco. Questo dunque è quello che sta succedendo a San Siro in questa domenica, in questo fine settimana, e adesso ne parliamo, che è anche quello degli allenatori, forse con la valigia in mano. Doha è stato uno sfogo normale, innanzitutto è uno sfogo che non c'entra niente, visto che ho letto dopo sul mercato del futuro di Allegri, cosa, non c'entra niente col futuro mio, è semplicemente stato uno sfogo. Noi dopo 35 minuti siamo usciti dalla partita, è un andamento che mi ha fatto molto arrabbiare e quindi credo che sia una cosa normale. Il suo mentore Galeone ha detto che il ciclo di Allegri alla Juventus è finito e che sta già pensando all'Inghilterra. Questa volta ha sbagliato, vi siete sentiti? No, ci siamo sentiti per gli auguri di Natale, ma col mister abbiamo un rapporto ormai da 30 anni. Il mio ciclo alla Juventus non è assolutamente finito. Sono molto contento di stare alla Juventus e spero di starci più a lungo possibile. Anche perché poi dopo farò delle valutazioni diverse, il momento che deciderò o la società deciderà di cambiare allenatore. Ma se si aprissero le possibilità, lei andrebbe mai alla Juventus? Che domandina facile. Ora mi coglie di sorpresa, però io faccio questo come lavoro, sono un professionista. Non vedo perché ci metta la Juventus e basta, ci poteva mettere la Fiorentina, l'Inter, il Milan. Io faccio questo come lavoro. Se continuerò ad allenare vado da tutte le parti. È curioso che le prime due della classifica abbiano entrambi allenatori un po' irrequieti sulla panchina. Giovanni Galeone, che saluto e ringrazio per aver risposto al nostro invito. Grazie, buonasera. Buonasera, mister. Oh, allora, cos'è? È finito o no il ciclo di Allegri alla Juventus, Galeone? A parte che io non ho detto questo. Ah. Io ho detto che credo di parlare abbastanza decentemente l'italiano per essere capito. Cioè, io ho detto che mi auguro che Max vinca il sesto scudetto, quindi che entri nella storia. Uno che entra nella storia va via. Che deve stare? Bravo! Se ne deve andare. Mister, io non sono juventino, ma lo dico con chiarezza. Però I have a dream, come quello là. Ho un sogno. Io ho questo sogno, Max Allegri che alza la Champions League, perché secondo me è stato a me molto simpatico, secondo me è un grandissimo allenatore, un allenatore top in Europa. Il mio sogno è Max Allegri che solleva la Champions League e il giorno dopo, saluta, o lo stesso giorno, fa come fece Mourinho, va via sulla macchina del Real Madrid. Per forza, cioè Mourinho ha vinto col Porto e se n'è andato via, ha fatto le triplette con l'Inter, cosa avrebbe dovuto fare di più? Sì, ma per Allegri questa Juve, cioè, qual è però la linea di demarcazione? Cioè il sesto scudetto è andare a Cardiff e vincere la Coppa? Perché qualcuno potrebbe dire, beh, è troppo facile vincere scudetti in serie in questo momento in Italia guidando la Juve. Vabbè, ma sei scudetti sono tanti, sempre nella storia Inter con sesto scudetto, insomma. No. Ha vinto due Coppe Italia, è vero che ha perso questa Supercoppa, però ha perso la Supercoppa contro una concorrente che aveva battuto in Coppa Italia, non è che avesse il titolo per fare la Supercoppa, perché non aveva vinto la Coppa Italia il Milan. La Coppa Italia ha vinto la Juve A contro Juve B, vince una Juve, insomma. Sì. Però, sì. Però la regola, una finale la costruiscono lo stesso. La regola è quella lì, in quei casi lì bisognerebbe dare la Supercoppa alla squadra che ha vinto la Coppa e il campionato e la Coppa Italia all'altra squadra che magari vince la Supercoppa. Ma non è che Allegri respira un'aria un po' strana intorno a Torino, cosa del resto cui dovrebbe essere abituato sin dall'inizio, insomma, sin da quando è arrivato? Abituato. Credo che sia abituato, non è vero che io ho parlato con lui, io glielo auguro che lui vinca. E mi auguro che lui vada via a fare un'altra esperienza in Inghilterra, in Spagna, ma veramente, perché da 9 anni che in Italia ha fatto 9 campionati di Serie A, ha già vinto 3 e probabilmente vincerà 4, il quarto scudetto. Ha salvato il Cagliari per 2 volte consecutive in Serie A. Dopo che se n'è andato via lui, insomma, il Cagliari qualche guaio lo ha passato. Anche il Milan. No? Ecco, il Milan mi sembra che non è che abbia fatto stra bene, quindi secondo me se lui vince lo scudetto, non ho detto che il suo ciclo sia finito, poi decide lui, perché io non ho mai fatto il procuratore nella mia vita, né mi sogno mai di, però così se mi trovo a cena con Max è chiaro che 30 anni di conoscenza eccetera eccetera, una battuta gliela posso anche fare: Max, dai, cammina via che io intanto a Torino non ci vengo, fammi venire a trovarti a Londra, che ne so, insomma, ecco, sulla panchina di Wenger. Io mi domando se Allegri, Allegri sia sempre stato così così mal sopportato da una frangia della tifoseria juventina, perché è venuto dopo Conte o perché per qualche altra ragione, perché io non ne trovo sinceramente più di così. Ma perché lui non rispecchia un po' quelle che sono le caratteristiche di un allenatore juventino. Un allenatore juventino bisogna avere per forza giocato nella Juventus, allora nemmeno Spalletti ha giocato nella Juventus. Sì, ma Spalletti non credo che sia che abbia il profilo giusto per andare a allenare la Juventus. Io ho un'altra idea, non ve la dico, che? Però. Ma come no? Adesso che è che si è candidato ieri Spalletti con quella frase? Si è candidato, però secondo me un profilo del prossimo allenatore della Juventus, nel caso Max decidesse di andare via o la società decidesse di mandarlo via, eccetera, è un altro e non è Spalletti. Sta a Firenze. Sosa Paolo. Esatto. Che ha il physique du rôle, abbiamo tutti il pedigree. Abbiamo tutti la stessa idea, insomma. Vabbè, ma tutte le caratteristiche, le peculiarità per essere l'allenatore ideale della Juventus, ha giocato nella Juventus, ha uno stile juventino, è tutto con l'inserito da fare. Ma la Juventus accettano le persone che sono juventine. Un altro stanno juventino, facendo di tutto per farsi... Per farsi cacciare via Gasperini. Da Firenze, sì, no, Gasperini secondo me sì, perché Gasperini è un altro juventino, però non ha ancora, non lo so se la Juventus può pensare già a Gasperini, però lui è un altro che è juventino, viene dal settore giovanile della Juventus, ha allenato con successo la primavera della Juventus, ha caratteristiche, carattere tosto, duro, vincente. Ha le caratteristiche giuste, è chiaro che Sosa probabilmente, avendo giocato più ad alto livello, qualche chance in più al pedigree migliore. Leggo un paio di messaggi. Dite quante finali ha perso Allegri con la Juve? Credo 3, ma una è quella di Champions, ragazzi, arrivarci già di per sé vale una stagione. Poi credo abbia perso 2 finali di Supercoppa italiana, vado a memoria, quella col Napoli e quella di Doha, tutte e 2 a Doha, tra l'altro con il Milan. Poi Allegri fa giocare le sue squadre male, ecco perché non piace, insomma, è sempre l'eterno dibattito tra gli esteti del calcio e quelli che mirano a vincere. Erano il dibattito anche sull'Inter di De Boer e post De Boer. Ma a queste persone date un momento il video della partita che... Ma ve ne posso dire 10, ma date quella che ha giocato col Bayern e dopo me ne trovate un'altra che non sia un Barcellona, Manchester City, ne posso trovare 3. I primi 60 minuti a Monaco. I primi 60 minuti di Monaco, trovate una partita in Europa di Champions più bella di quella. Io quella sera ho avuto l'impressione dopo un'ora che la Juve si stesse candidando a vincere la Champions, poi dopo è finita La Juve probabilmente avrebbe vinto partita straordinaria. Dobbiamo purtroppo salutare Giovanni Galeone, è sempre un piacere averlo con noi, grazie mister. Grazie a voi, grazie. Grazie a Giovanni Galeone, prima di fermarci andiamo a San Siro perché stanno succedendo cose importanti. Dario? Sì, 28esimo di gioco, ancora 0-0, ma c'è un'interessantissima punizione dal limite per il Milan. Ecco, seguiamo la battuta, Bonaventura, fuori di pochissimo il destro del numero 5 rossonero, che fa davvero la barba al palo più lontano della porta difesa da Rafael. Milan vicinissimo al vantaggio, Milan che invece pochi minuti fa, al 25esimo, ha rischiato di subirlo il gol, perché i rossoneri momentaneamente in 10 per l'infortunio d'Abate, uscito malconcio da uno scontro con Bruno Alves e poi sostituito al 27esimo da Antonelli, e proprio in quel frangente contropiede del Cagliari con Sau che libera limite dell'area Barella che conclude il sinistro non forte ma molto preciso, pronto Donnarumma a salvare in calcio d'angolo. Poi la sostituzione con Antonelli, che è entrato ad occupare l'abituale per lui corsia sinistra, e De Sciglio che ha preso sia la fascia destra sia la fascia di capitano da l'infortunato Abate. 29esimo di gioco, seguiamo qualche istante questo contropiede, se sei d'accordo Giovanni, perché il Milan si ripropone. Vai. In avanti con Bonaventura, apre sulla sinistra per Bacca prova a rientrare verso il limite dell'area, passa a Locatelli, l'intervento di Farias in copertura, Milan che però recupera il pallone da De Sciglio, ora a spingersi nuovamente in avanti, Suso al limite dell'area sinistra, rientra sul suo solito sinistro, prova la deviazione, palla che resta lì, prova anche la rovesciata Pasalic, ma è contratto dalla difesa cagliaritana. 30esimo di gioco, 0-0 tra Milan e Cagliari a San Siro. Sì, mi pare ci sia un marcato vantaggio territoriale, lo dicono anche i numeri, sto dando un'occhiata, insomma Milan che sta facendo la partita, però complessivamente in questa prima mezz'ora non impegnatissimo il portiere del Cagliari, sì, anche sì, se sì. C'è la sensazione che il Milan da un momento all'altro possa alzare i ritmi, possa rendersi pericoloso. Abbiamo un minuto di pausa, torniamo, poi abbiamo un ospite straordinario, in esclusiva assoluta soltanto per noi. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Allora, anno nuovo, inviato nuovo, abbiamo inviato un ospite straordinario, tutto nostro, appena rientrato tra l'altro nella Fiorentina come dirigente, Giancarlo Antonioni. Buonasera Giancarlo. Beh, buonasera. Buonasera, buonasera. Sono allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Cosa? Però non vedo i ragazzi, non vedo ancora nessuno, magari giocano in notturna. No, non giocano, forse c'è la neve. Forse ho capito male. No, c'è la neve, fa il gelo. Un po' freddino. Sì, ma è per quello che non si gioca. D'altronde ai miei tempi si giocava pure con la neve. Sì. Vabbè, ma anche adesso, però ce n'era troppa. Io mi ricordo che segnai anche un gol con la maglia della nazionale a Helsinki contro la Finlandia nell'80. Giocammo su una pista di slittino. Ma non è vero. Ogni tanto scendeva pure Armin Zogler a meno 34 gradi sotto lo zero, con stalattiti sotto la traversa, a stalagmiti a centrocampo. Un arbitro Aschi, sì. Ma erano altri tempi, si giocava. No, ma non potevamo parlare dei tempi di oggi. Cioè, ad esempio, Antonioni è tornato nella Fiorentina, noi siamo molto contenti. Sono tornato d'altronde alla Fiorentina con compiti di rappresentanza, di sviluppo delle attività sociali e via dicendo. Sta andando così, sta andando molto bene, ma è non sempre è vero. Molto qui fa un po' freddino a dir la verità, ma i ragazzi non tornano, non vengono. Non vengono un altro giorno, non vengo nessuno, non vedo nessuno, ma non gliel'hanno detto e sono allo qualcuno stadio, qualcuno si è dimenticato. Ma vengono più tardi, sapete qual? Io ho un ruolo di rappresentanza vicino alla presidenza. Praticamente la bandiera che sventola sul Ponte Vecchio. Ci sono anche poche luci, non vedo assolutamente niente. Allora, per questa volta tornare a casa. Per questa volta gliela diamo noi la notizia, però torneremo nelle prossime settimane. Non si gioca, Pescara-Fiorentina non si gioca, può tornare Giancarlo, può tornare non a casa. Si gioca, forse per questo ci stanno le stalattiti pure in campo. E forse per quello. Siamo a meno 6 gradi, fa un po' freddino. Non esageriamo. Si gela. No, il nostro grande Andrew Mercù è Giancarlo Antonioni. D'altronde sono tornato e magari ci risentiamo Ma si recupera domani? No. Si recupera probabilmente a febbraio. Data da destinarsi. Andiamo dove si sta giocando, San Siro, il nostro Dario Ricci, Milan-Cagliari. 36esimo di gioco, ancora 0-0, partita che si è un po' aperta in questi ultimi minuti, perché c'è stata una serie di rapidi contropiedi da una parte e dall'altra, e anche il Cagliari si è affacciato quantomeno sulla tre quarti. Devo dire interessante il ruolo di Sau, che gioca in mezzo ai due centrali milanisti, Romagnoli e Paletta, e prova a fare da sponda e quasi da rifinitore avanzato per le incursioni di Barella, e da segnalare sempre per il centrocampo dei Sardi la bella prestazione di Capuano, che schierato nell'undici titolare al posto di Gio Pedro finora sta dando per ragioni di aziendalismo. Vabbè, è il migliore questo in campo per distacco. Non ha ancora strusciato pallone, ma per ragioni di aziendalismo Ricci dice questo. È un drone del nostro Giovanni. Scherzo. Allora, dai, torniamo fra qualche istante a San Siro per Milan Cagliari, 36 minuti, 0-0. Non è il miglior Milan, ma è un Milan che sta giocando da Milan. Poi, assolutamente. Nel giorno d'andata queste partite spesso è riuscito poi a portarle a casa. Poi una virtù che è la pazienza. Sì, torniamo poi ieri sera. Se lui mi espelle un giocatore che per me è un centrale di difesa importante d'esperienza, che mi sfalza tutta la partita, ho già perso, perché se c'era l'espulsione, il chapeau, non l'ha toccato. Guardate, cioè, e facesse lei mia colpa, perché 8 fuori gioco non ha fischiati. Mauro, ma basta, no? Mettiamo le moviole in campo e mandiamo via gli arbitri da FGC. È una guerra ogni giorno, ogni istante che ti volti, qualcuno cerca di fotterti. Dell'arbitraggio non siamo contentissimi neanche noi. 5 minuti mi sembrano il minimo, visto l'atteggiamento di tanti loro giocatori, soprattutto del loro portiere. Una situazione in aria su Carleon perlomeno dubbia. Mertes messo giù al limite dell'area da cartellino, forse rosso. Silvestre forse non ha toccato il nostro portiere, però il partito sicuramente per intralciare il rinvio, e questo probabilmente ha tratto in inganno l'arbitro. Impedire al portiere fare la rimessa è già fallo, quindi io sento che mi tocca, non so se con l'anca, col braccio, non lo so. È fallo, ma non da ammonizione. Giudicate voi, se mi tocca allora è ammonizione? Se ti tocca, commette fallo disturbandoti, sì, è fallo e da ammonizione, ma se non ti tocca e dalle immagini sembra che non ti tocchi. Con la gamba a destra, netto, mica sono io, è quello, l'unico che lo vede. Non vince più bravo, ma il più furbo di sicuro. Questo credo fosse Reina Mediaset Premium. Poi a Sky ha detto che dalle immagini non si vedeva al tocco, però lui giurava di essere stato disturbato, ma tanto andremo avanti, potremmo andare avanti per mesi. Però noi abbiamo chiamato un tifoso del Napoli, sicuri che almeno da lui sentiremo dire che per una volta il Napoli non è andata male con l'arbitraggio, vero Boris Sollazzo? Sì, no, ma almeno per una volta non è andata male con l'arbitraggio. Poi detto questo, semplicemente era un arbitro scarso, voglio dire, nel senso che poi io fossi Giampaolo mi sarei strappato i capelli per quell'espulsione, ma me li sarei strappati pure perché un mio giocatore ammonito che fa il difensore e sta in attacco va a fare la cosa più idiota che poteva fare, a strusciare il portiere in quel momento. Poi io onestamente, avendo giocato a pallone, Silvestre protesta molto poco per essere uno innocente, quindi poi quando stiamo là, ma sei partito bene e ci stai dicendo che innocente, no, nel senso che poi quando fai una cosa del genere valla a spiegare all'arbitro. Poi francamente io ancora faccio fatica a capire che cosa servono 5 arbitri professionisti in campo se una cosa del genere non si riesce a vedere e magari a invertire l'ammonizione. Ma penso a quello, come al rigore dato e tolto a Zielinski nella prima giornata. Faccio veramente una fatica enorme. Ieri pure c'è stato poi un rigore, secondo me, solare su Calleon, che di sicuro è stato visto dall'arbitro di fondo. Sì. Diciamo che è stata una pessima direzione arbitrale valida, e questo vale per tutte e due. Diciamo che nel quadro di questa pessima direzione arbitrale, il Napoli stavolta ha incassato, altre volte ha pagato e stavolta ha incassato. Ma posso tranquillamente dirlo, voglio dire, nel senso che poi comunque allora, però dobbiamo anche dire che il Napoli ha vinto una partita in cui ha avuto più occasione dell'altra squadra, che è andato sotto sulla prima occasione d'attacco della Sampdoria, che Giampaolo è bravo perché tatticamente l'ha incartata Sarri. Detto questo, però, faccio fatica a capire perché un'espulsione è più importante di un rigore. Poi ve lo dico, incredibilmente questa volta il Napoli, oltre a subire uno sfavorito arbitrale, ne ha avuto anche uno. Però non mi sento proprio, ecco, dopo Milan-Juventus col gol di Montari, ecco, quello non... io per onestà intellettuale lo dico, c'è anche qualche arbitro, qualche ex arbitro che ritiene invece corretta a prescindere la decisione dell'espulsione di Silvestre, perché comunque il regolamento a prescindere dal contatto vieta che ci sia qualunque tipo di azione di disturbo su un portiere che rilancia, però ripeto, potremmo andare avanti per mesi, no, vabbè, e di sicuro non è piaciuta Giovanni, la sceneggiata di Reina, questo lo possiamo dire. Taglio la testa al toro e dico che se fosse successo a Tonelli di essere espulso così, io adesso starei Sarri sarebbe entrato il muro in campo con le unghie probabilmente, quindi no, però Solazzo dice una verità quando afferma che comunque sei difensore centrale già ammonito eccetera eccetera, quella cosa non la fa, sì, cioè ti metti in una condizione pericolosa, non gli passi nemmeno vicino. Aspetta, io fossi Giampaolo mi arrabbierei prima con Di Bello e poi molto poi molto con Silvestre, perché fa una cosa totalmente inutile. Uscendo un attimo dalle questioni arbitrali, io credo che se fossi un tifoso del Napoli sarei molto soddisfatto di aver vinto però una partita sporca, la terza di questa giornata, abbiamo detto sporca, quella dell'Inter sporca, quella della Roma sporca, perché sono partite che spesso queste partite qui non si vincono, e se le vinci pesano tanto, pesano doppio. Quella della Lazio, aggiungiamo, e il Milan oggi se vince, qui è una partita 42, sporchina 0-0 al 42esimo. Boris. No, è evidente secondo me dai risultati anche di oggi, quanto sia stata importante la partita di ieri. È evidente come tutte le squadre, diciamo, fisicamente più in forma hanno fatto dei richiami pesanti di preparazione e quindi hanno vinto negli ultimi minuti. Al Napoli mancava tantissimo, e devo dire c'è un'altra cosa che a me fa ancora più piacere che vincere una partita sporca, perché e su questo avete ragione, è una partita in cui per 60 minuti il Napoli non vede la porta neanche in cartolina, l'unica volta che la vede con Mertens la manda in curva, ed è una cosa stranissima per il Napoli, ma mi direte che sono due partite consecutive che il Napoli segna nei tempi di recupero, ed era una cosa che faceva ai tempi di Mazzarri e che poi con Benitez e Stadi di fatto non è mai successo. Insomma, secondo me è un segno di carattere, e colpisce anche il fatto che, insomma, Gabbiadini secondo me comincia ad essere un caso freudiano, perché appena le responsabilità se ne vanno ricomincia a giocare. A me questa cosa farà impazzire, perché è un giocatore secondo me che ha nell'autolesionismo il suo maggior talento oltre che il piede. Sì. Grazie Boris. Ciao Boris. Grazie a voi. Alla prossima. 30 secondi, 30, San Siro Milan Cagliari. 43esimo di gioco, 0-0, c'è un calcio d'angolo per il Milan, il Cagliari che si è fatto invece ancora una volta vivo dalle parti di Donnarumma, l'azione interrotta da Romagnoli ha dato il via poi a un contropiede che adesso è sfociato in questo calcio d'angolo, se vuoi Giovanni possiamo seguiamolo seguirlo. E poi c'è il traffico. Va la battuta a Bonaventura, siamo alla destra della porta difesa da Rafael, parte la parabola verso il centro dell'area, la respinta proprio del portiere sardo, la conclusione di Locatelli deviata nuovamente in angolo, questa volta da Cepitelli, ti faccio la stessa domanda. Vai! E allora Bonaventura ancora una volta sul pallone, ripropone la traiettoria all'altezza del dischetto, il colpo di testa di Pasalic, la conclusione di sinistro di Paletta, e ancora Pasalic numero 80 di testa a deviare sul fondo, e quindi niente di fatto, ancora 0-0. Grazie Dario, torniamo, c'è il traffico, saluto ciao Carlo Genta, ciao. Entriamo nei prossimi giorni, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Ci impegniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni, fai. E a noi? Tutti convocati. C'è qualche amico che chiede di conteggiare anche i 5 minuti di recupero tra i favori al Napoli, però guardate che è una tendenza di adesso, insomma i minuti di recupero si cercano di dare in maniera corposa. Poi c'è chi, per aver detto quello che pensiamo su Napoli-Sampdoria, dice che siamo al servizio della Juventus. Ce ne faremo una ragione. Tempo di recupero a San Siro, Milan-Cagliari, Dario Ricci. E siamo sempre là, Giovanni, perché c'è un altro calcio d'angolo per il Milan. Se non sbaglio dovrebbe essere l'ottavo di questa prima frazione di gioco, nato da un contropiede lanciato da Donnarumma, che è bravo in uscita a bloccare il pallone su un cross di Gennaro. Poi Suso ha provato a sviluppare l'azione sulla destra per Niang, contrato poi in angolo. Lo stesso Suso questa volta a battere con il suo sinistro, Rafael a respingere ancora con i pugni e poi Sau ad allontanare dalle parti di De Sciglio, ultimo difensore in questa azione. Due minuti di recupero, se n'è andato già uno del tempo assegnato dall'arbitro Giacomelli. A Paletta che prova a impostare per Pasalic, che ha un 5 metri davanti, approfitta per aprire sulla sinistra per Bonaventura, che rientra sul destro, pesca Bacca, tenta la girata che diventa quasi un assist a centroarea, ma nessuno è pronto per coglierlo. Prova Niang, la svirgolata finisce addirittura in fallo laterale, ma davvero per il francese era difficile, pressato da Di Gennaro, provare a fare molto meglio. Quindi rimessa laterale per il Cagliari all'altezza del lato destro dell'area di rigore dei sardi. Va Pisacane che appoggia su Isla, pressato però da Antonelli. Lo ricordiamo, Antonelli è entrato al 27esimo per l'infortunato Ignazio Abate. Finisce in questo istante il primo tempo, 0-0 a San Siro tra Milan e Cagliari. Primo tempo da 6 meno per il Milan, 0-0 sul Cagliari. Vedremo la ripresa. Intanto saluto Guido Vaciago, collega di Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao e buonasera a tutti quanti. Mi dai le ultime, se c'è qualche novità, che qualcosa che dobbiamo attenderci di diverso rispetto a quello che abbiamo capito in queste ore di vigilia su Juventus-Sampdoria? Direi di no. Pjanic dietro Dybala e Higuain, in difesa una difesa 4 con Barzagli e Chiellini in mezzo, Lichtsteiner e Asamoah. Centrocampo con Marchisio, Khedira e Sturaro, insomma una formazione quella annunciata con Neto in porta perché Buffon era influenzato. Ma quindi questo vuol dire che il tridente della Juve è quello con Pjanic e sarà, sarà difficile vedere quell'altro. Secondo me sì, perché il 2017 inizia così e inizia così perché il tentativo di far funzionare questo tridente non sarà neanche l'ultimo dei tentativi di far funzionare questo tridente. Io credo che l'altro sia un tridente affascinante, ma forse più per i finali di partita, e credo che quello funzioni un po' peggio perché Mandzukic tende a mangiare un po' di spazi sia a Dybala che a Higuain, e invece Dybala e Higuain forse riescono a sposarsi meglio, soprattutto se poi Dybala trova l'intesa con Pjanic. Dybala che oggi gioca a titolare, torna a titolare credo dopo 78-80 giorni, insomma dall'ultima volta che fu a San Siro, poi si fece male, è anche il significato di una normalizzazione, cioè il titolare è lui con Higuain. Ma speriamo proprio di sì, santo cielo, insomma voglio dire, io non credo che mettersi a discutere la titolarità di Dybala inizia a essere poi, insomma, va bene che la deriva del dibattito calcistico ogni tanto sfiora la follia, però ecco, teniamo dei punti fermi, Dybala non si può discutere. Io non so se diventerà forte come Messi, come alcuni dicono, certamente in questo momento è uno dei giocatori più divertenti che abbiamo noi nel calcio italiano, e per il bene di qualsiasi appassionato lui deve stare in campo, se sta in piedi deve stare in campo. E lo pensa anche Allegri o la pensa un po' diversamente, no, come sfumatura, mi auguro che la pensi così, ma io credo che Allegri abbia a che fare, io mi devo godere lo spettacolo, lui deve anche gestire lo spogliatoio, d'altra parte la differenza di stipendio è anche lì, sì, guadagni di più tu sì credo che lui abbia avuto dei problemi, cioè abbia tuttora dei problemi a gestire Mandzukic, Dybala e Higuain, perché sono tre giocatori forti e tutti di personalità, soprattutto Mandzukic. Quindi qualche volta lui deve aver fatto anche qualche scelta politica, e il recupero di Dybala è stato poi un recupero, devo dire, anche molto accorto, perché lui non poteva permettersi, lui inteso come Allegri, di farlo di nuovo infortunare. Siccome Dybala aveva avuto un brutto infortunio muscolare un po' insidioso, hanno gestito bene il suo rientro. Ora, adesso io credo che non ci sia più da discutere. Poi la Juve giocherà talmente tante partite tra Coppa Italia, che mercoledì riprende, quando riprenderà la Champions ci sarà la Champions e il campionato, quindi poi alla fine un po' di turnover riuscirà ad accontentare anche Mandzukic, credo. Sì, anche perché tu una stagione su tre fronti non la puoi giocare con soltanto due attaccanti. Ti ringrazio Guido. Grazie a voi. Grazie Guido Vaciago, Tutto Sport, ore 20:45, Juventus Bologna. Se la Juve vince fa 26 vittorie consecutive in casa, record. Allegri batte Conte, anche questo è uno dei temi di questa serata, come uno dei temi di questa domenica è stato l'ennesimo podio di Mölg. Parliamo di sci. Grande manche di Manfred Mölg. E anche lui prende centesimi in quel passaggio e ora deve gestire bene questo vai tratto. Vai Manni, gli sci sbattono ma li tiene, si tiene alto qui. Bravo, una gran fatica ma c'è, vai, c'è Manfred. Manni. 94 centesimi, ultime porte anche per il nostro Manni. Fantastico, fantastico, vai. Incredibile quello che sta facendo. Questo... ultime porte per Manfred Mölg al traguardo. Guarda è davanti, 1,56,70. Questo Mölg oggi, secondo ad Adelboden, dietro al norvegese Kristoffersen. Saluto Alfredo Tradati, telecronista di Eurosport. Ciao Alfredo. Sì, buonasera, ciao, buonasera a tutti. Dove ha trovato l'Elisir Mölg? Quasi 35 anni, vittoria Zagabria, secondo posto oggi, anche un po' fortunato forse, no? Ma un po' fortunato, ma direi che si è conquistato veramente con grande determinazione un secondo posto che vale una vittoria. Dove ha trovato l'Elisir? È risorto dopo l'incidente del 2014, rottura del tendine d'Achille, una cosa grave. Qualsiasi altro atleta meno formato rispetto a lui avrebbe anche abbandonato. Io l'ho incontrato subito dopo, il mese dopo, e già aveva in mente di ritornare al massimo livello, di puntare alle Olimpiadi del 2018. Incredibile, si faceva fatica a crederlo, ma ci sta dimostrando il contrario. In una stagione che per lo sci italiano, diciamo la verità, è da incorniciare, poi è arrivata forse solo la vittoria proprio di Mölg a Zagabria a livello di primo posto, ma siamo a quanto? 18 podi tra maschi e femmine? Sì, direi di sì, non ho il conto preciso, ma sono tantissimi e purtroppo siamo in un paese dove quello che conta è sempre la vittoria o quasi esclusivamente la vittoria l'ha portata a casa proprio Manfred Mölg. Però tutti questi podi in campo femminile, Sofia Goggia, ricordiamola ovviamente, e il lavoro che sta facendo lo stesso Manfred è veramente qualcosa di grandioso che non capita da tanto tempo in casa Italia. Certo, noi abbiamo il ricordo di Alberto Tomba e quello ovviamente ci mette in difficoltà perché uno come lui non lo troviamo. Sì, Tomba che deteneva il record precedente di vincitore più anziano di una gara di Coppa del Mondo sciando per l'Italia, record che Mölg gli ha proprio tolto nello slalom di Zagabria l'altra sera. Ma Sofia Goggia, fino dove possiamo spingerci con l'immaginazione e le suggestioni? Ma possiamo spingerci, io credo che possiamo spingerci anche in là, perché ha un carattere sereno, un carattere volitivo. Se non verrà contaminata e rovinata da eccessive pressioni o distrazioni al di là della sfera agonistica, ha tutte le qualità per rendere bene in quasi tutte le discipline e ha il carattere giusto. È spavalda, non ha paura, è convinta dei propri mezzi, sono tutti gli ingredienti che servono per emergere in Coppa del Mondo. Le previsioni sono sempre qualcosa di difficile, però su lei io credo si possa puntare. È polivalente il giusto per pensare che possa essere un atleta che poi prova a far classifica in Coppa del Mondo, come del resto già in questa stagione, perché ma in questo momento Sofia Goggia è quarta. Ma io lo spero e come tecnico ci vedo delle possibilità, però appunto lo sci è uno sport dalle mille variabili, può veramente capitare di tutto e di conseguenza ecco perché è difficile fare pronostici, però lei delle nostre sicuramente è quella con la mentalità più adatta e le caratteristiche di polivalenza più adatte per puntare anche pensando molto in grande alla Coppa del Mondo. A fare qualcosa di straordinario. Grazie Alfredo. Grazie a voi. Grazie Alfredo Tradati. Scrive un amico: la prima cosa che Sofia Goggia deve imparare è terminare le gare, invece si cresce anche sbagliandole ogni tanto le gare. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte e Andrea Roccabella che si sono alternati in regia, Andro Mercu con le sue mille voci. Noi ci ritroviamo domenica alle 17 dopo le partite, mentre Tutti Convocati torna domani dopo il GR l'Europa delle 14. Ciao. Dai, ne la faccio più, saluto. Ciao Michela, buon anno. Grazie al presidente Ferrero.